siamo così, non ci piace il lunedì. Noi siamo così, ci fa schifo il lunedì. Ci fa schifo. Noi siamo così, c'è una merda il lunedì. Mettiamoci d'accordo sulle parole, però. Allora, non ci piace, ci fa schifo. È una merda, però una merda la eviterei. Perché? Ma se la peste porta fortuna. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. Un saluto da Drago. Cos'è? Cos'è questo? Faccio uno scherzo, perché scherzo. Oggi è il 2 aprile, e quindi faccio due scherzi, perché è il giorno del pesce d'aprile. Ma no, ma sei in ritardo, era ieri il giorno del sì, pesce ma ieri d'aprile. Era domenica, quindi così il pesce salta, perché il pesce lunedì non si mangia. Ok, no, il venerdì, ma anche il lunedì. Poi salta, no, cos'è un salmone? Il pesce quando arriva fresco, il martedì. Il martedì, dici? Da dove? Dai pescherecci? Vabbè. Comunque ti faccio un pesce d'aprile. Vabbè, comunque... È da prima dell'alba ormai che tutte le radio di questo paese stanno facendo la gag, che oggi è come se fosse il primo di aprile, quindi fanno gli scherzi, eccetera. Noi arriviamo alle 5 meno un quarto, quasi per ultimi, a fare la stessa identica cosa. Infatti io scherzavo. Ma come scherzavi? Era il mio pesce d'aprile, no? Questo è molto divertente. Su, un po' di umorismo. Ho capito che non sarà al massimo, però almeno... fa ridere, no? Le pernacchie hanno sempre fatto ridere. Molti bambini, sai che ci hanno chiesto qui all'asilo di chi è la voce che dice questo è molto divertente. Trattasi della voce di Jean-Louis David, il famoso coiffeur. Come sarebbe? Jean-Louis David. Ma come? Ma c'è una persona che si chiama Jean-Louis David? Vabbè, dai, perché no? No, pensavo che fosse solo un nome sulle insegne, no? 10.000, 20.000 insegne. Tutte con un nome fasullo, Jean-Louis David. Tipo McDonald's, tipo non so, McDonald's. Buffetti. Beh, magari sì. Häagen-Dazs, Bang & Olufsen. Ecco, vabbè, però Jean-Louis David esiste. Però Jean-Louis David esiste. Parigi, 30 agosto 1748, Bruxelles, 29 dicembre 1825. Ma come scusa, questo è Jacques-Louis David, pittore francese. Pittore. Invece Jean-Louis è molto più giovane. Le peintre. Jean-Louis ha un'ottantina d'anni, è del 34. Quindi non è del 1748. No, del 34. Okay. E... Ma lui non li taglia più i capelli. Spero di no. Guarda, mia madre era parrucchiera pure lei. È del 32 e a volte minaccia di tagliarmi i capelli, ma io scappo più forte che posso. Ah, ecco perché sembri Don Chuck Castoro, tipo. Perché John Duck Castoro? Ah, ecco perché ti mancano un po' i pezzetti d'orecchio. Vabbè, sai perché lei, nonostante l'età, è velocissima. Un vero velociraptor, vero, eh? È un velo vero velociraptor, detto giusto. Un velociraptor. Vabbè. E ora, bambini, ricreazione! Uè, ragazzo, dai, andate! In classe, dai! Ma fai ancora lì! No, io cercavo Gino, il bidello! Chi Dino? Dino non c'è più, Dino! Dai, in classe, com'è? Dai! Come non c'è più? Cosa fai a panini? Cercavo Gino, perché... Dino non c'è più, adesso ti sono io! Hai capito? Come ti chiami, te, qui? Io mi chiamo... sono un bambino, no? Come ti chiami? Io, Gildo. Ah, Nildo? Gildo. Bello nome, Gildo, vai in classe. Beh, lo so, però... Gildo! Per favore, prendi la madre, tuo compagno e vai in classe, perché adesso non li stai in classe e non te lo voglio ripetere 7-8-9 volte. Però io, lei non mi può dire... No, non devo dire niente, a me te non devi andare in classe. Vai in classe, nel corridoio, vai, anda, vai, attacca il mulino con il tuo pantometro, stai attento, metti il mulino, mi metti la camminia, e stai attento perché trova da preventore, ti impatti un... Ma il suo pimpione, la casa, il tuo amico lì. Hai capito? E non lo vuoi venire, non ti importa anche, non mi sembra niente. Abbiamo anche i genitori. Non capisci niente. E anda. Io ho capito, sono genitori. Mai. Non ho capito mica bene. Mai. E questo ho capito, cioè, mai più. Mai, in quei minuti mi danno nel cuore, Mai. Mai, Otne. Mai. Vabbè, ma io. Non mi niente, sono qui a pulire, adesso sto andando. Sto andando come un pazzo per non pulire. E il mangio con noi e quelle scarpe di merda che avete voi. Cosa? Mai, grazie. Allora, vai in classe! Sono sneakers, no? Cioè... Senti, fammi un favore, prendi per mano il tuo amichetto lì e anda, dai! Va bene, lui! E vai in classe! E non fare il peso, sono 7 minuti, 10 che ti rompo le scarpe che devi andare in classe! Ma tu, il professore, non ce li hai! Sì! Ma non ti vengono a cercare questi qua! Sì, ma io ho permesso! Vai in classe! E basta! Cosa sei a fare? Cosa sei lì a fare che mi guardi con qua? Mi guardi! Mi guardi! Cosa sei lì a fare? Che io devo lavorare! Beh, se... Ma in classe che proprio mi rispondono le scatole a me! Sono qua a pulire! Sulle... Ale? E non è che è chiaro, no? Io vorrei voglio fare quello che dice lei, ma non capisco. Vai, allora. Vai, ma il dove? Aspetta, sai cosa dire? Vengo lì e ti porto io. Vedi? E ti spacco una scopa in testa. E qui sarebbe maltrattamento. Maltrattamento? Tu mi stai maltrattando? Devo lavorare, ho capito o no? Vabbè, ma cosa c'entro io? Vai a tu ne... Ebbè, per forza fuma, cioè... Manda, aspetta, pronto. Ehi, te ne vai di qua o no? Beh, adesso ti porto vedere dentro, ti porto vedere nel campanile, mi metto giù addosso, ti metto la giacchetta, ti porto la canna io, ti porto due genitori, ti porto un matto con te. Poi ti ho già detto un mattino, ma scusate, no, se mi ascolti, devi andare a studiare, sono venuto un'ora che i tuoi compagni sono in classe. E tu cosa appena lì appare? È una sciarada, è un gioco di dicbisco, cioè ci sono delle parole chiare degli altri che non capisco, devo indovinare, cioè... A te? Non chiedere. Ma vieni qua! Ma no! Vieni qua! Dai, no, scoprirò! Metti un fatto, vieni qui! Gino, basta! Questo è quando torna Gino! Ma te la prenderei quando torna Gino, no! Di questa mano lui e dice a te! Adesso poi tessera mai! Tutte e due! Boom! Ma tutte e due chi? Tutte e due, sai Gino, Ginetto e Gino! Gino, qui, allora stasera qui, e poi vado a casa e faccio la... E poi scatta la denuncia! Ma fatti venire a prendere perché ti spaccano le gambe per iniziare. Però, uè! Stavi venga a casa con le tue gambe! Uè, allora, questo è minacciando! Mike Clappe! Would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar? And be better off than you are? Oh, would you rather be a bureau? E ora, bambini... Il sonnellino. Conta le pecore. Ma che sgnaccamento di palle, Drago. A me non riesce. Drago, mi vengono solo delle capre a me. Ma tu non sei una pecora. Sono un capretto. Appunto, sei una capra. Un capretto. Sì, ho capito, un capretto. Però anche tu, come noi uomini, sei geloso della tua identità, no? Non sono una capra, sono un capretto. Come dire, sono il presidente del consiglio, non sono un politico, sono un tecnico. Tecnico. Ma niente. Me. Dai, almeno fai qualche salto, fammi addormentare. Capra! Capretti! Sì, vabbè, capretti! Sei qui apposta, no? Per farmi addormentare, allora, dai. Veramente sono qui, ma non so perché. Sì, ma te l'ho appena detto, tu sei frutto della mia immaginazione. Sei qui perché è l'ora del sonnellino all'asilo e mi servi per farmi addormentare, capito? Vabbè, non importa. Quel che importa è che adesso tu sei qui e sei qui per farmi addormentare. Quindi, salta. Hai capito? Devi saltare e farmi dormire. Chiedo of getting sober. When you get it. Quindi che bisogno c'è di diventare sobri se poi ci si ubriaca di nuovo? Vabbè, non è certo uno di quei messaggi che uno si aspetta di ricevere lunedì sera. Lunedì sera di solito televisione, pantofole e tutto quanto. Infatti, però ubriacarsi aiuta con le pantofole, sì, così sei già a casa. Vabbè, sì. E sei già ubriaco, sì. Quindi, insomma, non devi neanche uscire la macchina, niente, guidare chi mi viene a prendere. Plaid. What's the use of getting sober? E quindi buon plaid a tutti per questa sera. Ci risentiamo domani con la puntata del martedì di Chiedo Asilo.